Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza... Deputati, lasciate terminare la ministra. La richiamo all'ordine. Voi avete deciso di fare il funerale della democrazia varcando le colonne d'Ercole. Vergognatevi. Mi dispiace dirlo, ma è veramente da miserabili. Noi non consentiremo il fascismo renziano, non lo consentiremo. Non pensate di averla vinta facile, perché la gente si sta svegliando. A tutto c'è un limite, la corda non si può tirare troppo. Non c'è cosa più democratica di mettere la fiducia. Se il governo passa, va avanti. Se la legge non viene approvata, il governo va a casa. Era il clima di ieri alla Camera con la replica del Presidente del Consiglio a TG1. Ecco, onorevole Roberto Giacchetti, buongiorno. Vicepresidente della Camera dei Deputati. Lei per la legge elettorale in realtà ha fatto di tutto, ha scioperato, ha digiunato. Adesso è finita praticamente. È soddisfatto dell'esito? Sono soddisfatto che finalmente facciamo una legge elettorale rispondendo agli impegni presi. Poi, come lei sa, la legge che io avrei preferito era un'altra, ma non c'è, perché il mio partito, quando si trattò di votarla, votò contro, quindi purtroppo ci prendiamo quella che c'è. Senta, le regole si fanno tutti insieme, però è il mantra predicato da tutti ma rispettato da nessuno. Perché? Ma guardi, in questo caso le regole sono state fatte ovviamente insieme a coloro che si erano dichiarati disponibili. Il PDL con Berlusconi lo ha fatto, poi è arrivato al voto del Senato, ha votato questo identico testo di legge, improvvisamente alla Camera è diventato anticostituzionale. Mi sembra un po' una commedia in generale: quelli che l'hanno votata adesso dicono che è incostituzionale, quelli che ora vorrebbero votare quella che non hanno votato dicono, cioè è obiettivamente purtroppo un'altra pagina dell'ipocrisia italiana. Ecco, una pagina dell'ipocrisia italiana è una pagina anche, diciamo la verità, Renzi nel gennaio del 2014 twittava: la legge elettorale e le regole si scrivono insieme. Adesso però non c'è neanche tutto il PD a scriverle. Non è importante? Guardi, queste sono state scritte con il PD e con Forza Italia. Poi dopo qualcuno ha ritenuto, dopo averle scritte insieme e anche votate insieme, di tirarsi fuori. Vale anche per il PD. Sì. La legge che votiamo oggi è una legge, a mio avviso, peggiorata per raccogliere le richieste della minoranza PD. Io penso che l'inserimento delle preferenze sia un danno di cui pagheremo i costi non so fino a quando, ed è stato voluto dalla minoranza del PD. E quindi sono state chiacchiere. Sono state discussioni che hanno raccolto, perché una legge deve essere ovviamente di sintesi, non può essere una legge che piace a noi, sennò ci sarebbero 630 leggi, che hanno raccolto delle modifiche. Alcune di queste a me proprio non piacciono, ma abbiamo detto che bisognava fare una legge elettorale e adesso la si deve fare, non si può rimandare all'infinito. Senta, onorevole Giacchetti, Renzi però ha anche detto: farlo a colpi di maggioranza è uno stile che abbiamo sempre contestato. È sempre Renzi che parla. Sì. Ma le parole contano o non contano in politica? No, ma per capirlo così tranquillamente. No, ma io penso che contano, le ripeto, per un anno questa legge è stata fatta da tutti, cioè da tutta la maggioranza più Forza Italia. Lei capisce che se però a un certo punto qualcuno, senza una ragione, e questo è evidente a tutti che non sia quella del tema del Presidente della Repubblica, che mi pare difficile che possa poi all'improvviso rendere incostituzionale una legge, all'improvviso qualcuno si sfila, lì diventa un potere di ricatto per non fare mai nulla, che è quello che accade da 15 anni a questa Senta, parte, che sì. Ci ha pensato la Corte Costituzionale. Senta, onorevole Giacchetti, Enrico Letta ha detto: se fosse capitato a Berlusconi noi saremmo scesi in piazza. Ma guardi, abbiamo visto la legge che ha fatto Berlusconi, che era il Porcellum, non mi pare che siamo scesi in piazza. No, dice, se fosse capitata una cosa, cioè la fiducia, mettere la fiducia in queste condizioni, l'ha detto Letta. Ma guardi, io penso che io adesso obiettivamente capisco che il tema della fiducia è un tema forte, ma la fiducia è prevista nella... No, io sto parlando della fiducia, naturalmente. Sì, no, dico, ma la fiducia è prevista nella Costituzione, perché se il governo si rende conto che ha una maggioranza... No, ma infatti non è in discussione. Non ho capito, noi rispetto a Berlusconi abbiamo fatto tante cose che francamente ci potevamo risparmiare. Io penso a tutti i temi della riforma della giustizia in cui abbiamo gridato vendetta. Probabilmente, se avessimo pensato agli italiani invece di fare la guerra a Berlusconi, probabilmente qualche riforma importante l'avremmo fatta. Quindi sul fatto che il PD a guida Letta, Bersani, non so chi altro, ne abbia combinati tutti i colori, io non ho dubbi. Senta, onorevole Giacchetti, per alzare un attimo il livello della riflessione, il mondo globalizzato cambia e va più veloce. La democrazia governante prende il posto di quella inclusiva per stare dietro a questo meccanismo? Io penso di no, e anzi dobbiamo rischiare che così non sia. Non dobbiamo neanche rischiare l'opposto, però, che per non andare troppo veloci siamo fermi da 20 anni, e mentre il resto allora bisogna dare più spazio alla democrazia governante, perché bisogna anche scegliere poi a un certo punto. Guardi, io penso che certamente io sono a favore del semipresidenzialismo alla francese, quindi puoi immaginare, per esempio, quindi pensa di sì, diciamo. Però penso che questo non significa escludere la partecipazione, cioè, le due cose possono convivere tranquillamente. Tranquillamente magari non è proprio il punto d'equilibrio, non è semplicissimo, però diciamo che potrebbe essere considerata quasi una definitiva uscita dal Novecento politico, l'entrata nel XXI secolo. A me piacerebbe molto, però come noto queste cose non le si fanno con delle maggioranze, quindi bisogna conquistare anche su questo una maggioranza. Già adesso, se riusciamo a conquistare una legge elettorale, abbiamo fatto un grande passo avanti. Senta, c'è Mario Seghe che gli vuol fare una domanda. Buongiorno Giacchetti. Ciao Mario. Se passa l'Italicum, direi che i numeri ci sono tutti, poi si farà una concessione, chiamiamola così, sul Senato, sulla riforma del Senato, secondo te? Ma guarda, io il tema, se il tema della concessione è quello della modifica del modo di elezione dei senatori, a mio avviso tecnicamente è complicato, perché l'articolo 2 è stato approvato così com'è, salvo un inciso che non è insignificante. Si può fare, ma si ricomincia tutto da capo. Sì, forse si voterà prima, probabilmente. E questo è impossibile, però, perché la legge prevede che non si voti prima del luglio 2016. Si è già visto che c'è qualche piccolo escamotage che potrebbe essere utilizzato. Posso garantirvi che non c'è. No, chi lo dice, no, questo vale come per i deputati in più. Ogni tanto qualcuno ne tira in ballo una e quella diventa. Questa non è vera. Ma non è vera. Quindi esclude una riforma del Senato diversa. Questo è interessante come notizia. Io personalmente approvato, escludo che l'articolo 2 si possa modificare, a salvo che si ricomincia tutto da capo. Poi se si modificano altri articoli in un altro senso, leggi attuative, questo lo capiremo in corso d'opera, però. Va bene, grazie onorevole Giacchetti, grazie, buon lavoro. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Un paese di anziani, gli italiani sono la popolazione più longeva d'Europa. Funny, but it's true. Non ci vedi? Siamo soltanto dei reperti archeologici che si trascinano in giro. Migliorano le aspettative di vita della popolazione. Io mi sento come un leone, sono pronto a battermi con il mondo intero. I've loved you more each day, walking back to happiness. Dobbiamo guardare la realtà in faccia e capire che siamo vecchi. È vero, non dobbiamo divertirci troppo, dobbiamo ricordarci che siamo vecchi. Beh, voi fate come vi pare, io voglio divertirmi. Buonanotte, vecchietti ramolliti. Ci divertiremo come nel 59. Droga, mi avete. La pasticca per la pressione vale. Sbronzavo così da 30 anni. Gira, gira tutto. La speranza di vita si allunga a livello globale e continua a crescere. A inizio del Novecento negli Stati Uniti era di 47 anni, oggi di 79. E di questo passo nel 2050 sarà di 88 anni. L'invecchiamento della popolazione comporta naturalmente una vera e propria rivoluzione sociale. Una società più vecchia è più costosa dal punto di vista sanitario, meno produttiva e offre nuove forme di business. Così aumentano gli studi scientifici sia per rallentare l'invecchiamento che per rendere la terza età più serena e gestibile. Con il 21% di popolazione oltre i 65 anni, l'Italia, insieme al Giappone, è il paese più vecchio del pianeta. A Verona è nata la prima azienda italiana che fornisce ai propri clienti la lettura del DNA allo scopo di identificare le predisposizioni a sviluppare malattie nel futuro. Marco Dotto, vicepresidente esecutivo di Personal Genomics. Ecco, che come nasce Personal Genomics? Personal Genomics nasce come una spin-off universitaria, in particolare noi siamo nati all'interno del centro di genomica funzionale dell'Università di Verona e della Facoltà di Medicina. Quanto è affidabile il test? Cioè, che garanzie dà questo test? Attualmente questo è il test più accurato che possa essere fatto per quanto riguarda l'analisi del genoma, in quanto permette di sequenziare l'intero patrimonio genetico di una persona, può essere una persona sana, una persona che ha bisogno invece di una diagnosi molecolare per una patologia genetica. Ecco, ma c'è una certezza nel garantirlo come esito? Perché, come dire, l'effetto della lettura può essere molto, molto forte anche. Assolutamente. Allora, la cosa importante per quanto riguarda il sequenziamento del DNA è innanzitutto l'aspetto del sequenziamento vero e proprio, cioè la lettura di quello che è il nostro codice genetico, e questo diciamo che è garantito da delle tecnologie che permettono di avere una lettura accurata. Sì, ma è l'interpretazione del sequenziamento. Esattamente, quello è il secondo punto. L'interpretazione è invece quello nei quali la nostra società ha creato il suo expertise negli anni, integrando sia la conoscenza di esperti, professori di genetica e bioinformatica, che è esattamente la scienza che studia il genoma e che analizza i dati del genoma tramite strumenti bioinformatici e i clinici. Ecco, ma i test di verifica per garantire il risultato da quanto li fate? Da quanto tempo? Noi il test della genomica personalizzata l'abbiamo iniziato ad offrire proprio un mese fa al pubblico. No, ma dopo quanti noi test? Noi abbiamo sequenziato il primo genoma, in realtà il primo è stato proprio quello del nostro direttore scientifico, nel 2011, quello è stato il primo genoma che abbiamo sequenziato, e da lì siamo partiti principalmente focalizzandoci su pazienti con patologie, appunto con eziologia genetica, e su campioni di pazienti che invece sono affetti da tumore. E quanto costa questa analisi, diciamo così? L'analisi può avere, diciamo, due versioni: una versione che comprende il sequenziamento, la lettura dell'intero genoma della persona, che ha un costo di circa 5.000 euro, mentre nel caso invece si legga la parte codificante, che si chiama esoma, che è una piccola parte del genoma, ma in realtà è quella che considera la maggior parte delle mutazioni note e, diciamo, tutto ciò che è la maggior parte di ciò che è azionabile da un punto di vista clinico, invece costa 3.500 euro. Cioè, praticamente, se io ho delle malattie che possono svilupparsi nel futuro, voi me lo dite, mi dite quando e quanto? E quali, anzi, quanto e quali? Tre cose con questo test che si chiama Genome Insight. Possiamo dirne la predisposizione a malattie complesse, sì, quindi dalle malattie cardiovascolari, le malattie neurodegenerative ai tumori. Dall'altro lato possiamo dirle se lei è un portatore sano di una patologia genetica e quindi se può trasmetterla ai figli. Dall'altro lato noi facciamo anche uno studio che riguarda la farmacogenetica, cioè come il suo DNA interagisce con quelli che sono i farmaci che possono servire per qualsiasi tipo di patologia. Ma quindi dire che si è predisposti poi non vuol dire che uno ce l'ha? Esattamente sì, infatti non è una condanna a morte. Una malattia, ci sono malattie genetiche per le quali ciò che è scritto nel nostro DNA fondamentalmente implica... Uno può essere predisposto a una cosa che non gli capiterà mai. Esattamente, mentre la predisposizione vuol dire che quella persona ha un aumentato rischio rispetto alla popolazione generale per quella determinata patologia, ma ovviamente potrebbe tranquillamente non capitargli mai, oppure potrebbe essere, appunto, come ho detto, maggiormente predisposto, e quindi rispetto ad altri l'incidenza di quelle persone che hanno quella mutazione del DNA è più alta rispetto al resto della popolazione. Ecco, dottor Dotto, ma il rischio poi voi lo esprimete in percentuale, cioè io sono predisposto ma... oppure niente percentuali, com'è? No, noi non utilizziamo le percentuali perché le percentuali sono fuorvianti. In particolare il nostro test è uno strumento per il clinico. Noi siamo gli esperti dell'analisi del genoma, ma poi è il clinico che è l'esperto della singola patologia e va a prendere quella che è l'informazione che noi forniamo al medico e al paziente e la traduce in una strategia, appunto, per la prevenzione, uno screening precoce di particolari patologie. E come si esegue? Questo si esegue con un semplice prelievo di sangue che viene effettuato, appunto, dal medico che è in cura al paziente. È anche possibile prevedere da questa analisi una avversione a certi farmaci piuttosto che altri? Esattamente, noi con la farmacogenetica possiamo individuare quelli che sono i farmaci per i quali una persona è maggiormente o meno sensibile rispetto alla popolazione generale, e quindi il medico con questo dato in mano può decidere se correggere quello che è il dosaggio standard per quella persona. Ecco, ma ci sono oggi... altri farmaci che noi con la farmacogenetica possiamo anche dire se una persona risponderà o non risponderà assolutamente a quel farmaco, quindi se sarà inutile prenderlo o meno. Perché ovviamente sempre con l'aiuto di un medico. Okay. E quanti clienti avete oggi? Attualmente, guardi, consideri solo il primo mese, ne abbiamo ricevuto più di 100 dal lancio, abbiamo ricevuto più di 100 richieste da privati, però in realtà la maggior parte del dei test che ci vengono richiesti sono da parte di persone che hanno patologie genetiche, certo, che non sono mai state diagnosticate. Infatti la Personal Genomics nasce proprio per questo, per rispondere a questo tipo di domande di, ecco, tutte quelle persone che non hanno mai avuto una diagnosi per una patologia, quindi malattie rare e quant'altro. Dottor, un'ultima cosa, lo studio del DNA però solleva anche molti problemi etici. Per esempio, i test potrebbero far emergere, come abbiamo detto, delle predisposizioni a malattie per le quali non esiste una cura. E voi ovviamente come vi comportate in questo caso? Questo, e nel consenso informato che viene fatto firmare al cliente, che non è un paziente, all'analizzato, c'è un consenso informato nel quale tutto questo viene spiegato. Noi prevediamo di fare una consulenza che è obbligatoria, una consulenza con un genetista medico che spiega tutte queste implicazioni al paziente. Il paziente può tranquillamente decidere insomma, che lo vuol sapere o non lo vuol sapere, diciamo. Sapere o non sapere, quindi c'è tutta una lista di patologie per le quali possono tranquillamente decidere di non sapere. 9:24 minuti e 21 secondi, 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Ecco, professor Roberto Bernabei, direttore del Dipartimento di Geriatria della Cattolica di Roma, presidente di Italia Longeva, il network dedicato all'invecchiamento per promuovere una nuova visione dell'anziano come risorsa per la società. Professor Bernabei, ha sentito di questi test del DNA, della Genomics? È davvero possibile prevedere di che morte moriremo? Ma intanto è possibile, come sappiamo da tanto tempo, la vecchia genetica, quella mendeliana, per cui già sappiamo che c'è un gene che è per esempio responsabile della talassemia. Quello che è capitato di nuovo è che la sequenziazione del genoma, quello di cui le parlava il professor, il dottor Dotto, ci dice molte più informazioni su una serie di malattie, nel senso che ci dice che c'hai tot pezzetti di geni che ti contribuiscono alla possibilità di, certo, alcune malattie. Ecco, ma quindi può esserci certezza della malattia che ci colpirà in termini di probabilità più o meno elevata? Eh? Ci dice che c'hai un aumentato rischio, che è tutt'altra cosa. Tenga presente che tutto questo ce lo dice poi per quelle malattie di cui si ha questa sequenza poligenica, cioè si sanno i pezzetti di gene che ti determinano l'aumentato rischio e che sono alcune malattie, certo, per esempio l'Alzheimer, che è una roba micidiale come incidenza, certo, come prevalenza, come rischio, danno, eccetera. Noi sappiamo che c'è un pezzettino di gene che si chiama ApoE che è collegato con l'Alzheimer. Da qui a dire che ti viene l'Alzheimer, ragazzi, la strada è lunga. È ancora lunga, ma quando ha senso, se ce l'ha, ricorrere alla chirurgia preventiva? Penso al caso clamoroso di Angelina Jolie. Ma Angelina Jolie ci aveva sicuramente, gli avevano sequenziato e gli avevano detto: senti, tu c'hai tre pezzetti di gene per il quale hai un aumentato rischio calcolabile intorno al 50% di farti un cancro del seno. A quel punto uno è come tirare sulla monetina, certo, una su due. Io avrei ragionato dicendo: beh, insomma, vediamo di fare la mammografia, l'ecografia e quant'altro ogni tre mesi, sono cose non invasive e eventualmente lo prendo all'inizio. Certo, ma è possibile rallentarlo realmente l'invecchiamento? Ma qui entra in campo una cosa che credo sia assolutamente affascinante, perché quello che non c'è stato tempo che le dicesse il dottor Dotto è che questi benedetti geni si sa che oggi hanno la possibilità o meno di esprimere la proteina, o insomma di fare il lavoro per il quale sono previsti. Uno di questi lavori potrebbe essere l'espressione di un certo tipo di cancro, va bene? Ma quanta parte della longevità è frutto dei geni? Ma senta, se lei mi dice siamo due gemelli monozigoti, cioè identici, e dice io sono arrivato a 100 anni, quante possibilità ci sono che mio fratello o mia sorella abbia la stessa buona e buon esito? In sotto il 4%. Ah. Perché? Perché? Perché professor Bernabei? Perché c'è questo pezzo che non è stato ancora detto, che l'espressione del gene, cancro incluso, perché il gene può anche esprimere un bel cancro, è modificato da quella che si chiama epigenetica, tanto per confondere le cose. Cioè, ma lo stile di vita, da cosa? Da qualsiasi cosa, può essere il fatto che tu fai un mucchio di esercizio fisico e quindi riesci a provenirtelo, può essere che tu sei fortemente depresso, triste perché hai una vita infame e questo facilita invece l'espressione di quel gene. Ecco, ma mettiamo che un 30% sia determinato dalla genetica, i ricercatori potrebbero arrivare a creare una sostanza che induca il corpo a riprodurre, diciamo, quello che accade nei detentori fortunati dei geni buoni? Ma è abbastanza possibile che questo accada. Oggi dobbiamo intanto mettere insieme la cornice per la quale tu sei quel tipo di vecchio su cui io debbo agire, perché poi ci sono anche i vecchi buoni. Io torno da uno dei più grossi congressi dove abbiamo parlato negli Stati Uniti, si è visto che i centenari oggi sono svariate centinaia di migliaia al mondo. I cento decennari, cioè i super centenari, sono qualche centinaio, quindi intanto sappiamo che dura ad arrivare ai 120, ma di questi centenari il 30% è in buona salute. Ma su quale obiettivo primario allora dovrebbe concentrarsi la ricerca per avvicinare e diffondere questa condizione? Beccare l'altro 70% e di questo 70% cominciare a capire certamente qual è lo stile di vita, cioè queste ormai sono cose che sono abbastanza diffuse, consolidate, sì. Consolidate. Ma il vero problema è che questo 70% che sta messo male non perché c'ha il diabete o l'ipertensione o il cancro della prostata, perché c'ha queste tre malattie insieme e ancora queste non le abbiamo mai studiate, perché queste tre malattie insieme producono un unicum che è lì su cui bisogna sbatterci le corna e cercare di trovare delle soluzioni. Ecco, ma l'Italia, l'abbiamo detto, è uno dei paesi più longevi insieme al Giappone. Ma come si può migliorare allora la qualità della vita degli anziani e contemporaneamente far sì che anche pesino meno sul sistema sanitario nazionale? Ma io ho una soluzione, gliela propongo subito. Siccome tanto ormai il lavoro costa, le braccia costano, quindi assistere costa perché ci devi mettere le braccia, ma la strada è quella di fare delle tecnologie che ci permettano di monitorare le persone che stanno a casa, e oggi basta un cerotto per vedere se c'hai la pressione a posto, se la glicemia sta bene. E queste tecnologie sono da esportare, l'Italia ha queste capacità, lavorasse su questo, facesse del paese un enorme laboratorio dove poi perlomeno abbiamo la possibilità di andare a vendere all'estero, per esempio, delle questa tecnologie ricerca, che aiutano noi e aumentano il PIL. E quindi, professor Bernabelli, pensa a case intelligenti, robot per anziani, insomma, bravo. Ecco, ma quanto la tecnologia può fare poi in concreto per migliorare la vita, perché tiene più il rapporto con il medico-paziente, diciamo? Ma oggi può fare molto, il rapporto medico-paziente è una roba che va bene, ovviamente va senza dire che è una cosa fondamentale, ma se questo medico ha delle informazioni proprie, puntuali e nelle 24 ore, non una volta ogni 6 mesi che uno si vede così per tradizione. Questo è il vero cambiamento e su questo bisogna che ci sia una riflessione. Il vero fatto della politica, la grande politica, è che su queste cose deve riflettere e dare delle soluzioni. Io non ne posso più di Italicum, Minoli, datemi qualche cosa sulla vita di tutti i giorni. Non lo deve chiedere a me, io intanto le do una domanda su un farmaco, professor Bernabei. Sì. Sembra che un farmaco che abbia grandi potenzialità, la rapamicina, sia quasi pronto per essere testato. È l'elisir di lunga vita deciso da un farmaco? Su questo mi piacerebbe assai, si pensi quanti disastri mi si risolverebbero anche nella professione di tutti i giorni. L'idea che ci sia la singola pallottola magica quella proprio in modo teologico, filosofico, sì, non ci credo. Ma sta rapamicina? Ma qualche cosa fa come al solito, ma di roba che ha fatto nel topo meraviglie sono 100 anni. Pensi che l'ultima è la più bella, credo, e che si è visto nel topo che la trasfusione di sangue di giovane topo a vecchio topo fa delle meraviglie. Questo topo vecchio ridiventa attivo, salta, si innamora e quant'altro. Aspettiamo di vedere cosa succede nell'uomo, perché sennò lo diceva già Ippocrate, no? Gli umori buoni, vabbè. Vabbè, insomma, quindi starà pamicina con grano salis. Con grano salis e con magari altre 7-8 cose. Ah, ecco, cioè la qualità e ritorniamo lì. E ritorniamo alla bellezza, tutto sommato, di una vita che non è meccanicisticamente determinata, ma c'ha una serie di variabili random che sono da una parte meravigliose e dall'altra, se vuole, anche inquietanti, ma propendo per il meraviglioso. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24. Di questa canzone, perché oggi c'era gran folla in metropolitana. Dalla stazione Cornelia in direzione Anagnina si sono riversati pellegrini, turisti, ambulanti, i soliti pendolari, gli insegnanti, gli studenti, eppure nel bel mezzo di Roma un caravanserraglio di mercanti, mastri d'ascia, fabbri abili a forgiare scimitarre, e anche un serraglio tra i cammelli, un'elegante carovana da cui provenivano profumi, suoni, tepori, e tutta quella gran folla ha mosso meraviglia verso quell'innesto che poi era un innesto di malinconia, di nostalgia, di promessa. Non c'era spazio per uno spillo oggi in metropolitana, tutti avevano un luogo dove arrivare. Ma oggi quella carovana di dolcezze, allestita a Porsaide, transitata per l'Ellade, ha aperto un varco intorno a sé, si è presentato il filosofo e ha cantato con Giorgio Conte questa canzone, Lei. Lei mi ha detto che si è liberata finalmente. Bella lei di Giorgio Conte, Mario. È un grande, sì, Giorgio Conte. Lei. E tu invece? Io una lei. No, tu chi sei? Più di una. Con la tua bolla. In the name of love, you do it, eh? Beh, allora, con la splendida voce di Bono, che noi diciamo minutensi per tutti. No, non è tornato lui. Non è lui. Non è tornato lui. Ma in inglese come si... Perché mi piacerebbe fare delle imparare l'inglese così, così in radio. Allora, come si dice meno tasse per tutti in inglese? Ma è intraducibile. Intraducibile. No, sì, perché dovresti dire... In Inghilterra le mettono le tasse. No, le tolgono. La notizia è che comunque non le aumentano, nel senso che David Cameron ha, come sapete, una scadenza elettorale, il 7 maggio si vota e dunque cerca la carta finale per vincere il rush, no? L'ultimo miglio, insomma, di corsa, è un testa a testa con i laburisti, sì. Stanno in vantaggio di un punto i conservatori secondo il sondaggio dei sondaggi che pubblica The Economist, sono 35-34, però insomma la ciccia qual è? Che non ci sarà nessun incremento di tasse sul reddito, né IVA né assicurazioni sociali in aumento. un po' cavaliere. Cioè, no? Insomma, diciamo che togliere le tasse vuol dire non aumentarle. Minuti in sempre sostanzialmente. Tutti. È tornato. Salamino! Con tutto il rispetto per tutto e per tutti, aia, uno solo è l'argomento politico. Uno, neppure l'Italicum è così importante. E figurarsi la scissione del PD. Allora, il capitolo fondamentale è il Veneto. Saranno pure importanti i rinnovi alle regioni Liguria, Umbria, Puglia, Campania e Marche, ma sono le Venezie a far muovere le lancette della storia. Io adesso vi presento i tre sfidanti in un frammento proposto da Hollywood. Allora, la prima, Ale Moretti. Come so candidato, ho detto bisogna che sta la vicina alla gente. Ma dove sei la gente? E va? Dove voto chi sia? Che ho detto? Come faccio per accontentarli? Portiamo nei bar quello che la gente vuole. Quindi più Moretti nei bar. Ecco, questa è la Moretti. Adesso Moretti, l'uscente governatore Luca Zaia. Savi che ho lavorato tanto per far pompare la sanità con l'occhio bionico, dopo che ho fatto il robot di chirurgia a Treviso e Cyberknife a Vicenza, dopo cosa ho fatto? A fiamma dei megalopoli per far sparagnare il gas e in omaggio alla Lega ho fatto l'alabarda spaziale. L'alabarda spaziale di Luca Zaia e infine il terzo incomodo, il sindaco di Verona Flavio Tosi. Ogni volta che arrivava Salvini e diceva Tosi, guarda che proprio così non va bene, bisogna cambiare. Tosi, adesso basta. Se andiamo avanti in sta maniera perdiamo anche i regionali, che tu capio. Tosi, sono profondamente deluso. Cioè, vedere che sei solo colpa mia. E ora sono da via dalla Lega. Anda via. Allora, queste sono elezioni importanti, però hanno il trucco e il barbatrucco. La legge elettorale in Veneto, porca miseria, potevo farmelo spiegare prima da Giachetti, prevede che sotto il 40% non c'è premio di maggioranza e si vince solo quindi con 28 consiglieri, il che significa che per governare le Venezie bisogna allargare la maggioranza dopo il voto. Allora, i cavalli più impegnativi stante la situazione sono Zaia e poi Moretti, ma se solo Tosi prende il 10% può infinocchiare tutti. Praticamente il concetto qual è? Questa vince e questa perde, fate il vostro gioco. La carta rossa vince, la carta nera perde. Avvicinatevi, fate il vostro gioco. Questa vince e questa perde, il gioco è fatto. La carta rossa vince, la carta nera perde, fate il vostro. Uno pensava alle Venezie e invece si arriva a Napoli. Praticamente chi vince perde, chi perde vince. E sono le famose tre carte. Eccola qua, qui non ci sta, fate il vostro gioco. Sara, a proposito di tre carte, tu cosa ci racconti? È una situazione complessa. Io sono convinto e confido che ci sarà un'indagine corretta, strettamente scrupolosa delle norme dello Stato di diritto, di cui questa grande democrazia indiana è esempio. Dobbiamo tutelare i Marò, vedere di riportarli a casa. E io credo che questa strada ci rende possibile sperare in una soluzione fast and fair. Ho incontrato il mio omologo indiano per ribadirgli che siamo determinati a esplorare tutte le azioni e politiche e legali a livello internazionale per vedere riconosciuti i nostri diritti ad esercitare la giurisdizione sul caso dei due Marò. Qualcosa è cambiato nel quadro politico indiano e credo che il canale di comunicazione da questo punto di vista politico si sia rafforzato rispetto a prima. La Corte Suprema indiana ha rinviato il ricorso di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone per la 57esima volta. 57esima volta che ripeto perché sia chiaro a tutti che il governo italiano si sente dire che deve aspettare ancora. Il motivo questa volta è che la Corte Suprema indiana sospenderà tutte le udienze il 15 maggio. Perché? Iniziano le vacanze estive, anche in India il tema delle vacanze per i magistrati è un problema. Questo lo dice lunga però. Vabbè, dai, meno male che c'è la Mogherini a Bruxelles, ragazzi. Sassolino nella scarpa. Sempre buona. Niente, che mi fa tanto tanto male. Hai batto il piede in su, batto il piede in giù. Giro mi rigiro, sembro Belzebù. Vabbè, ha messo il dito nella piaga ancora una volta, Sara? Mi pare che questo tema sia una cosa che non è più né tragica né comica. Sono prigionieri. Sono prigionieri, facendo finta di liberarli. D'altronde noi quell'area geografica l'abbiamo sempre considerata così, una robetta. Io mi ricordo che negli anni 90 l'Italia chiudeva i suoi uffici nell'area mentre gli altri si espandevano, cioè, diplomazia si fa con l'economia, con le cose. Il governo italiano, ricordiamolo, ha chiuso l'ISIAO, l'Istituto per l'Africa e l'Oriente, tagliando così una tradizione di orientalismo che non era soltanto erudizione, vorrei dire, ma economia e commercio. Esattamente. È la cecità del governo italiano. Pubblicità. Monge, crocchette e patè per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta Mix 24. Orchestra del Manovra in the Dark, Nola Gay, guarda che bella. Me l'ha chiesta Barbara e quindi l'ho dovuta ammettere. Certo. Non è che potevo. Si può discutere. Sì. Mi piace a Minori questa roba, ballava a Minori, questo, va bene. Insomma, vabbè, Nola Gay è una canzone per la pace. Parliamo di guerra, è una guerra economica, una guerra di principi ereditari, è anche una guerra vera che si fa con le armi nella regione. Parlo di Arabia Saudita. Ci sono notizie molto importanti, finora è la notizia sicuramente più importante dal punto di vista geopolitico, quindi la notizia del giorno, perché nella casa della corona stanno succedendo cose importanti. Il nuovo re Salman ha fatto secco il principe ereditario Mokren, lo ha sostituito con l'attuale ministro dell'interno Mohammed bin Nayef, e insieme a questo ha sostituito anche il ministro degli esteri, ed è diventato ministro degli esteri, guarda caso, il nuovo, quello che era l'ambasciatore a Washington, Adel Jubeir, e al ministero della salute va il capo di Aramco. Aramco è il gigante, certo, il gigante del petrolio saudita, che è Khalid Al-Falih, che mantiene la carica anche in Aramco perché ne resta presidente, e pare resti al suo posto il ministro del petrolio. Perché vi dico tutto questo? Perché i sauditi sono fondamentali non solo per l'equilibrio del Medio Oriente, o lo squilibrio se si vuole, ma perché sono loro che hanno fatto crollare il prezzo del petrolio a $50. Per buttar fuori tutti, fare il gioco dell'omino nel pozzo, e questo impatta moltissimo nelle nostre vite, come sapete, nel bene e nel male. Aggiungo che sono attivi con una guerra in Yemen, una guerra aerea molto importante, sono avversari acerrimi degli sciiti. Cos'altro volete che aggiunga? Che crolla il prezzo del petrolio, ma non quello della benzina, per esempio. Quindi, che è quello che interessa a tutti. E quindi sono movimenti che vanno tenuti molto d'occhio. Salamini. Noi italiani. Poi c'è sto noi italiani. Allora, Diego Della Valle, avete saputo, lancia da Milano la sua fondazione. È stato intanto lanciata, però sarà presentata tra pochi mesi. Non è un partito. Dopo l'Expo. Mm-hmm. Sì, perché lì c'è il problema patriottico e vero dell'Expo. Allora, non è un'associazione, non è un partito, ma scrive che deve stimolare, ti senti stimolato Mario? Moltissimo. Tutti quanti hanno voglia di fare il bene del paese. Ed è un incitamento ad amici e colleghi. Scarpe tots, eppur si deve andare. È arrivata la nuova primavera. Mario, tu ti vuoi fare il bene del paese? Beh, certo. Qual è il tuo paese? Cabras, io sono di Cabras. Io ce n'ho due, Agira e Leonforte, quindi faccio il bene doppio, uno per Agira e uno per Leonforte. Allora, Della Valle dice che se non ci fosse l'inaugurazione dell'Expo, e la necessità di inseguire la ripresa, dovrebbero andare tutti quanti, anche lui, noi, voi, tutti a votare, loro. Essi, loro, io, tu, lui, noi, a votare di corsa. Tu la sai inseguire la ripresa, Mario? Io ancora non l'ho trovata, se me la fate vedere io. Lui ha detto che la inseguo. Ce l'ha, non ho capito se ce l'ha a favore o se ce l'ha contro i professionisti dello stop and go. Stop and go. Che stop cos'è sto stop and go? Così io continuo a imparare l'inglese. E niente, ti fermi al semaforo e poi riparti quando è rosso. Ma lui è a favore o è contro lo stop and go? E non lo so. Non è ancora partito. Eh no, ma infatti io lo voglio aiutare. Però lo voglio aiutare. Intanto, allora bisogna prendere tutte le tessere. Questo si è capito. Sì, qui, sì, tu sì, ti sì. sei iscritto alla Leopolda. Ora lo faccio. No, troppo. Io mi iscrivo. Iscritto alla? Alla Leopolda. No. E allora iscriviamoci a noi. Comunque io ho una soluzione. Una soluzione e la offro agli ascoltatori, a tutti noi, a tutti voi, a tutti quanti. Allora, innanzitutto lanciamo un hashtag. Cancelletto, incitamento amici e colleghi, quindi scrivete prima il cancelletto, poi incitamento amici e colleghi, oppure visionate il sito che ho immediatamente approntato, www.incitamentoamiciecolleghi.stopandgo. Dopodiché sulle note di Sua Eccellenza si fermò a mangiare. Noi italiani a noi italiani. Tutto a posto, uno dai, spot per... Senta... Meglio a posto. Senta, professor Simonelli, tiriamo su un pochino il dibattito, non sono sicuro, ma proviamo. Sicuro, perché abbiamo qualcosa da sentire che non so se tira sul dibattito. Ah, dica. Un po'. Il mio pubblico gli piace che io gli dica come la penso. A me non molto. Sul programma di Del Debbio ho anche altre perplessità. Io trovo che quando c'è il pubblico, quando c'è la piazza, c'è una recita. Nel senso che le persone che vanno lì vanno per recitare ormai una parte. Ma lei chi glielo dice questa cosa? Che presunzione è la sua? È la presunzione di uno che guarda... professore. Va tutto in piazza per quel che dice Simonelli. Ma ti pare una roba... Professore, ha visto? Lei frequenta luoghi strani, discute con Del Debbio, Del Debbio vince però. Del Debbio vince. Lei fa l'intellettuale, lui parla con la gente e vince. Questo è il grande equivoco. Non è un equivoco, è un dato. Questo è il grande equivoco. Si sta diffondendo nella televisione italiana una tendenza pericolosissima che lei non dovrebbe assolutamente sostenere. Io non la sostengo, io perché? La certifico, no, mi accorgo. Il servizio pubblico che fa questi scontri non aiuta a elevare il discorso. Assolutamente. Ecco. Ma lei che è un maestro di giornalismo, sì, sa che il giornalismo serve per spiegare le cose, appunto, per andare dietro alle cose. Invece Del Debbio ci mostra semplicemente l'apparenza delle cose. Questi sindaci di paese, questi... Ma e questi sindaci di paese perché lo dice con questo disprezzo? Sono stato eletti, loro sono eletti, mentre molti di quelli che ci governano non sono eletti. Ma i sindaci di paese nelle televisioni del Debbio sono delle maschere, sono dei personaggi. Sono delle persone, professore, non dei personaggi. No, lei ha fatto del grande giornalismo proprio perché è andato al di là di queste maschere. Mi dica che cosa, dov'era il servizio pubblico questa settimana? Ma questa settimana, io... Non lì dove lei bazzica, ma dov'era altrimenti? Per la gioia di Buttafuoco, insomma, sì? Il 25 aprile di Fazio era una grande serata di servizio pubblico. Ah, certo, va bene, sì. Quello pazzesco. Viva Del Debbio! vede come ruota tutto, sì, le carte si scambiano. E poi? E poi a me sembra che questa fiction, la grande famiglia, sa che io amo la fiction e la fiction italiana quando è bella, c'ha zero. Quando è bella è bella. Lo diceva anche Pazzaglia. Quando è bello è bello. Nel senso che qua, lo diceva anche il ciel di Lombardia, è così bello quando è bello, non solo Pazzaglia. Allora, quindi, quando la fiction italiana trova un punto di riferimento come è un settore industriale avanzato, diciamo, andiamo bene. Comunque volevo farle un complimento, professore, lei è l'unico critico che si lascia criticare. Mi sembra una cosa molto bella, almeno purtroppo direbbe Buttafuoco, lei è democratico. Attenti al rischio peritollame, professore. A differenza di Del Debbio, bene. È filosofo quello. Grazie. Quello è filosofo. Grazie, alla prossima, professore. Alla prossima. Grazie, professore. La prossima volta, intanto, dopo il giornale radio, Marina Milone ci racconterà una storia. Che storia ci racconti? Oggi raccontiamo la storia di un evento misterioso, la lacrimazione di una statua di gesso che raffigura la Vergine Maria. È una storia iniziata nel 1995 a Civitavecchia ed è una storia che all'epoca ha fatto il giro del mondo. Poi silenzio. Il Vaticano continua a non pronunciarsi, ma il caso della Madonna di Civitavecchia lascia ancora aperti molti interrogativi. L'autrice di questa inchiesta è Elisabetta Castana. Bene, allora dopo il GR e intanto per chiudere, non so che canzone abbiamo, ma una ce l'avremo. Grazie. Anna Oxa. Anna Oxa.